una stanza. Il tempo sta passando e questa musica lo sta accompagnando. È già qui il desiderio di sentirsi bene davanti agli occhi, poter guardare il cielo e respirare. E non è un sogno, e non è un sogno, e non è un sogno. Sono qui a raccontare con una canzone la distrazione che si può trovare senza aver visto cosa poter fare. E non è un sogno, e non è un sogno, e non è un sogno.